detto educazione artistica. Odiavo il disegno, la musica, la lirica. Poi sullo schermo un frattale è comparso. Dalla matematica un mondo è nato. Linux, Creative Commons, musica online, algoritmi orrendi suonavano fine. Ma tra lupe e brani senza identità, chi distingue il codice dalla mediocrità? Dimmi cos'è l'arte allora. Merce da vendere all'ora d'oro. Un colpo al cuore che dice no all'industria culturale, al suo show. Tra Dornor, Gamer e pubblicità io cerco un'opera che in realtà mi dà non solo un prodotto da consumare, ma qualcosa che mi sappia cambiare. Ci risponde un astronauta a cavallo tra le onde. La forma è tutta nella descrizione, ma il contenuto chi lo mette in funzione? L'IA è artista o solo uno strumento che rivela il vuoto di tanto intrattenimento? Quante opere umane sono solo cliché, non diverse da immagini generali.